L'assassino della bestia. C'era una volta, in una terra lontana, un povero vasaio e sua moglie. Il vecchio lavorava molto duramente per realizzare i suoi vasi, ma poiché i vasi erano molto economici, tornava sempre indietro con pochissimi soldi. La coppia aveva due figli, ormai abbastanza grandi. Il figlio si chiamava Lionel. Era un giovane estremamente bello, ma aveva paura anche della più piccola cosa. Sua sorella Lily era carina come un girasole ed era molto gentile. I loro genitori li adoravano entrambi. I miei dolci figli, se solo arrivasse un po' di fortuna, potrebbero avere una bella vita. Tutto a suo tempo, mia cara. Lily è così dolce, qualcosa di buono verrà sicuramente per lei. E per quanto riguarda Lionel, bene... Lionel ha il nome di un leone e il cuore di un piccolo gattino. Non è affatto coraggioso. Ah, cosa farà quel ragazzo? Non preoccuparti per lui. Quando sarà il momento, sarà il più coraggioso di tutti e farà vergognare tutti gli altri leoni. Ogni altro leone dovrebbe già vergognarsi. In una bellissima giornata, Lily era fuori nei boschi canticchiando a tutti i graziosi uccellini e agli animali. Proprio in quel bosco c'era un mago gentile. Vide Lily cantare allegramente e si innamorò immediatamente della sua straordinaria bellezza. Cosa potrebbe esserci di più affascinante di questa bellissima foresta? Tu, mia bella signora, sei la creatura più affascinante che abbia mai visto. Regalò a Lily una rosa e lei si innamorò subito dei suoi occhi gentili. Lily portò il mago a casa sua e disse ai suoi genitori che voleva sposarlo. È molto gentile e ha promesso di prendersi cura di me. Ma vivrò molto lontano e non potremo mai incontrarci. I suoi genitori rimasero sbalorditi da questa notizia, ma guardarono il sorriso della figlia e le diedero la loro benedizione. Grazie per avermi dato Lily. Prometto che l'amerò per sempre. Ecco, questo è un regalo per voi. Arrivederci, padre, madre, Lionel. Verrò a trovarvi un giorno. E con uno schiocco delle dita scomparvero in un istante. La famiglia ora era diventata molto ricca grazie ai doni del mago. Il vasaio e sua moglie erano felici. Ma con il passare del tempo Lionel iniziò a sentire la mancanza di sua sorella. Oh, come mi manca Lily. Ora non ho nessuno con cui litigare. Che cos'è questa confusione? Vide delle persone intorno ad un uomo che vendeva qualcosa. Lionel cercò di vedere di cosa si trattasse. Uff, che cos'è? Che cos'è? Scarpe, una chiave. Perché questa folla è così entusiasta di acquistare solo queste due sciocche cose? Qui, ragazzo, queste non sono solo cose. Questi sono stivali magici e anche la chiave è magica. Davvero? Ma sembrano così normali. Non lo sono! Gli stivali, quando qualcuno li indossa, portano quella persona ovunque desideri andare. E la chiave aprirà qualsiasi porta chiusa al mondo. Allora li voglio, li comprerò da te. Ecco, è abbastanza? Più che abbastanza! Lionel mise la chiave in tasca e indossò gli stivali. Ora vediamo se funzionano. Stivali magici! Portatemi dove si trova mia sorella. E in un attimo si ritrovò in piedi, proprio accanto a sua sorella e al mago. Oh, cielo! Lionel? Lily! Oh, Lily, mi sei mancata moltissimo. La mia fortuna mi ha portato da te. Ma come sei arrivato qui? Questi stivali mi hanno portato qui. Sono magici. Non sono meravigliosi? Stivali magici? Capisco. Bene, perché non stai con noi? No, sono venuto solo per vedere se state bene e se siete felici. E sono anche molto contento di usare questi stivali e di vedere un altro posto. Sapevo che non ti importava così tanto di me. Bene, allora ti consiglierei di andare nella Terra dei Cristalli. Ho sentito che il re è un uomo molto amichevole. Ti accoglierà sicuramente. Oh, sì! Quella terra è davvero molto bella. Vai a vederla, Lionel, e non te ne pentirai. La Terra dei Cristalli? Perché no? Ecco, porta questa sfera di cristallo con te. A cosa serve? E come funziona? Lo scoprirai quando ne avrai davvero bisogno. Lionel li salutò mentre si preparava a partire. Vorrei essere nella Terra dei Cristalli. E immediatamente si ritrovò in una terra così bella dove le case erano adornate con cristalli di ogni colore. Gli uomini e le donne indossavano cristalli scintillanti nei capelli e sui vestiti. Wow, è tutto così fantastico! Tutto ciò che vedo brilla così magnificamente che non riesco a smettere di fissarlo. E le persone qui sembrano così felici. Beh, immagino che essere circondati da così tanta bellezza renderebbe tutti felici. Ora voglio visitare il re. Stivali magici, portatemi dal re dei cristalli. Wow, sono già a palazzo? È ancora più sorprendente. Ora, come trovo il re? Chi sei? Ah! Ed ecco il re della terra di cristallo, che faceva colazione con sua figlia, Ruby. Il re rimase scioccato nel vedere Lionel e lo fissò incredulo. Dimmi, chi sei e come sei entrato nel mio palazzo? Io sono Lionel, vostra maestà. Ho degli stivali magici. Poi ho sentito parlare del suo meraviglioso regno e beh, ora sono qui. Stivali magici? Come funzionano? Beh, devo solo dire il nome del luogo in cui voglio andare e voilà, gli stivali mi portano lì. Re Cristallo era molto interessato agli stivali. Perché non ti unisci a noi per colazione? Questa è mia figlia Ruby. Nel vedere Ruby, il cuore di Lionel si sciolse perché la sua bellezza superava quella di tutte le altre fanciulle che avesse mai visto. Sarei onorato. Stivali magici, portatemi accanto a Ruby, la principessa della Terra di Cristallo. Sono davvero magici? Da quanto tempo sei nel mio regno? Sono qui da pochi minuti. Ma tutto ciò che ho visto in questi pochi minuti è più di quanto abbia mai visto in tutta la mia vita. Anche le persone qui sembrano molto felici. Sarei felice anche io se solo non stessi invecchiando e se mia figlia si sposasse. Non ho mai detto di no. Ho solo detto che avrei sposato solo l'uomo che riuscirà a uccidere la bestia. Bestia? Quale bestia? Ah, bene, la gente di questa terra è davvero felice. Ma questo solo fino al tramonto. Quando arriva la sera, ogni persona deve rientrare perché una bestia viene a terrorizzare tutti noi. Nessuno sa dove vive o come liberarsene. E io voglio sposare solo l'uomo che lo scoprirà. Ora vedi perché sono così infelice? Una bestia? È spaventosa? Molto. Il solo vederla farebbe urlare un uomo come un topolino. E non sposerai nessun altro tipo di uomo coraggioso? E se avessi ucciso ragni pelosi? Che potrei uccidere con un dito. Il povero Lionel era così terrorizzato da ciò che aveva detto alla principessa Ruby, ma si era innamorato profondamente della sua bellezza e voleva in qualunque modo conquistare il suo cuore. Bene, lo farò. Sconfiggerò questa orribile bestia. Cosa? Impossibile? Non mi hai sentito? Nessuno sa dove si trova la bestia. Scoprirò dov'è la sua tana. Fidati di me, mio re. Porrò fine alle paure di questo regno per te. Quella sera, mentre Lionel si stava preparando per partire, si chiese cosa avrebbe fatto. Cosa ho fatto? Non ho idea di cosa fare quando troverò la bestia. Ad ogni modo, ci penserò quando ci riuscirò. Devo essere coraggioso. Stivali magici, portatemi dove risiede la bestia. E il secondo successivo, Lionel si ritrovò di fronte a un'enorme porta nel cuore della foresta. Dietro a lui c'erano viti lunghe e folte che pendevano da un albero. Una porta nascosta. Nessuna sorpresa che nessuno possa trovare la sua tana. Provò ad aprire la porta, ma era ben chiusa. Questa porta non si muove. Come posso... Aspetta, la chiave! E dalla sua tasca estrasse la chiave magica che poteva aprire qualsiasi porta. Oh, spero che funzioni. Per favore, funziona! Sì! La porta scricchiolò e si aprì lentamente per rivelare un ingresso buio. Oh, ora entrerò in questa caverna e affronterò la bestia. Niente spaventerà il grande Lio. Posso farlo? Lionel prese così il suo coraggio ed entrò nell'oscura e tenebrosa caverna. Una volta dentro, sgattaiolò silenziosamente. Nessuna traccia della bestia. Forse è uscita? E lì vide la bestia che dormiva profondamente. Fu davvero terrificante da guardare ed il russare era così forte che tutte le cose nella caverna tremavano e cadevano. La bestia! L'ho trovata! Ora io devo trovare un modo per eliminarla. Lionel si avvicinò ad essa. Si piegò ancora un pochino per guardarla meglio. Il rumore dei vasi rossi fu così forte da svegliare la grossa bestia. Si svegliò e guardò il povero Lionel, che era così spaventato da non riuscire neanche a muoversi. No! Chi sei? Come osi entrare nella mia caverna e disturbare il mio sonno? La bestia catturò Lionel con i suoi enormi artigli e lo mise in una gabbia gigante. Un piccolo umano sciocco è entrato nella mia caverna. Come hai trovata? Che stregoneria hai usato? Sii coraggioso, Lionel. Sii forte. Vedi questa sfera di cristallo magico che mi fa vedere qualsiasi posto io voglia. Una palla di cristallo magica? Bene, non ti servirà niente ora che ti ho catturato. Lionel si stava chiedendo come fare a liberarsi. Sembrava che tutto fosse finito per lui, finché non gli venne in mente una cosa. Grande bestia, quanto sei forte. Ma sei davvero così forte come dicono? Sono solo un viaggiatore ed ero curioso di vedere. Ah, forte? Sono il più forte e potente che abbia mai camminato sul pianeta. Nessuno sarebbe mai sfidarmi. Stai mentendo. Come può qualcuno essere così forte, a meno che il tuo potere non sia falso? Possiedo un grande potere, uomo. A differenza della tua finta sfera luminosa, il mio potere viene dal cuore che ho trasformato in un cristallo e poi l'ho nascosto nella grotta di cristallo. Una grotta di cristallo? Che cos'è? È una grotta piena di strani e magici frammenti di cristalli. Nessun essere umano può accedervi e nessuno di questo regno ci va più da quando io ho iniziato a regnare. Wow, sei davvero una bestia molto forte e coraggiosa. Lo sono, vero? Bene, basta chiacchiere. Devo uscire per andare a caccia ora perché ho molta, molta fame. Oh, non ti preoccupare, ti mangerò più tardi. La bestia uscì dalla caverna e andò a terrorizzare la gente del regno, lasciando Lionel molto spaventato. Grazie al cielo se n'è andato. Mi ha detto abbastanza per farmi scappare. Stivali magici, portatemi alla grotta di cristallo. E quando aprì gli occhi, vide che si trovava in una bellissima caverna buia, piena di piccoli cristalli scintillanti. Avevano così tanti colori ed erano così belli che Lionel quasi si dimenticò perché era andato lì. No, devo concentrarmi. Devo trovare in fretta il cuore della bestia. Ma come? Ci sono così tanti cristalli qui. Qual è il cuore della bestia? Improvvisamente la sfera di cristallo iniziò a brillare fra le sue mani. La guardò meravigliato. Strano. Non mi sta mostrando alcuna immagine? E mentre guardava i cristalli attraverso la sfera, uno di loro cambiò colore. Deve essere quello. Questo deve essere il cuore della bestia. L'ho trovato! Prese il cristallo e lo gettò a terra. Cadde e si spezzò in un milione di pezzi che scomparvero. No! L'ho fatto! Stivali magici, riportatemi dal re della terra dei cristalli. Oh, povero me! Mi fai sempre sussultare mentre mangio! Mio re, principessa, l'ho fatto! Ho sconfitto la bestia! Davvero? Hai davvero sconfitto la bestia? Sì, Altezza, siete libero dal suo terrore e la sua gente ora sarà al sicuro. Oh, ora sì che possiamo essere felici! Grazie, ragazzo mio! Ma c'è ancora un'altra cosa da fare per rendermi estremamente felice. Ruby! Beh, ha sconfitto la bestia e come promesso sarò lieta di sposarti. E così, il giorno successivo, si tenne una grande cerimonia. Tutti furono felici del matrimonio della principessa con il coraggioso assassino della bestia. Beh, principessa, sono stato coraggioso, vero? Per aver ucciso una bestia così potente? Sì, sei molto coraggioso. Sono felice di avere un marito coraggioso come te. E sono felice di avere una così dolce e adorabile... Ah! Ragno!